e fa molto bene, ci vuole l'aria show. E mi sembra che sono quelle scale corti e sale, un'altra cosa che ci metti. Con l'aria show vai tranquillo che ti libera tutto. L'aria show ci vuole, capito? Con le fialette. Mario Vulcano! Valentino Di Mano, frente Vasco. Positivo, tutto il calato al centro. Ciao Gigi, ma Vulcano, la rimaccia lunga, passa in quelle tigre per andare a ritirare la pistola a lavoro. Cambio. Dicevo che il maracchino che gli ho dato, cavolo, che il maracchino che gli ho fatto fare, Gigi Luca, però tutti quanti semplici sono fatte, non va bene, non va bene, non è portato. Show.